certamente si può dire che è una battuta infelice, ma avendo la pazienza di ascoltare tutto il contesto si capisce anche che era detto in modo un po' provocatorio, per prendendosi una libertà che magari un mese fa non avrebbe avuto, avendo un mese fa magari minore dimestichezza con l'uditorio, con le conferenze stampa, con le interviste e così via. Non c'è dubbio, è una frase infelice, proprio ecco, per le considerazioni che anche gli ascoltatori le hanno inviato. Quando uno deve andare a chiedere un prestito a una banca, ovviamente l'assenza di un posto fisso diventa un problema, ma lo sarebbe di meno se la probabilità di perdere il posto di lavoro fosse distribuita in modo più uniforme tra tutti i lavoratori e quindi se fosse molto più bassa per tutti i lavoratori. Il problema delle banche e dei precari è che su di loro, o diciamo chi ha un rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, è che su di loro si concentrano le probabilità di perdere il posto di lavoro.